Care amiche ed amici di Radio Alma, la tela sonora, cuore di poesia, il vostro conduttore Massimo De Martino, stiamo parlando della parola in questa puntata. Abbiamo parlato attraverso una cronaca di José Saramago, di questo mondo e degli altri, si chiama proprio Le parole. Ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando insieme con l'opera di Patti Smith, che della parola ha sempre fatto il suo principale mondo d'arte, sia quella del rock and roll che quella della poesia. Bene, cerchiamo di capire il passato e come appunto abbiamo letto da quello che dice Patti Smith, non credo, la cito, che bisogna distruggere tutto il passato per costruire il futuro, bisogna imparare ad usarlo. E impariamo ad usare il suo passato, nei periodi in cui, soprattutto in Italia, l'opera di censura è molto, molto importante e, come dice anche Daniele Silvestri, un grande artista italiano, la dittatura c'è ma non si vede da qua. Cosa vuol dire? Che quando la comunicazione è interrotta, quando ci viene detto solo che chi ha il potere vuole, che noi conosciamo, allora il problema è importante, è grave. Nel 1977 Patti Smith ha dovuto affrontare, in una di quelle che si chiamava Radio Libere e Radio Alternative, questo pericolo, questa censura. E vi racconto come si è ribellato a tutto questo. Leggo delle cronache proprio di quegli anni. A Capodanno 1977, Patti Smith ha dato un concerto al Palladium a New York. La WNUFM si è rifiutata di mandare in onda il concerto perché nello scorso novembre, nel corso di un'intervista alla radio, Patti ha usato il termine fottere. Appresa la notizia, Patti ha scritto una pesante condanna della radio rock progressista. Ed eccone alcuni passi. Fotti la parola, fotti la parola, fotti la parola è morta. Il 29 novembre 1976 Patti Smith ha trasmesso per radio dalla stazione FM WNU un appello per il contenuto di questo messaggio. In futuro il Patti Smith Group non verrà più mandato dal vivo sulle onde del Metro Media. Una trascrizione a disposizione della gente, per coloro che sostengono la libertà di comunicazione, per decidere che tipo di programmi vogliono ascoltare alla loro radio. Questo comunicato si chiama La Resistenza e tra poco ve lo leggerò. Resistenza. Patti Smith. Noi crediamo nella totale libertà di comunicazione e non scenderemo a compromessi. La censura delle parole è senza senso, tanto quanto la censura delle note musicali. Non possiamo tollerare nessuna delle due. Libertà significa esattamente questo. Nessun limite, nessuna frontiera. Il rock and roll non può essere sfruttato come una ricca colonia. Questo è ciò che c'era da dire e il modo nel quale si doveva dire. Questo è lo spirito in cui è iniziata la nostra musica e la fiamma per cui deve essere continuata. Radio Etiopia è una sinfonia di esperienze, ogni pezzo un movimento, 14 movimenti, 14 stazioni. Dicono gli Stones, c'è silenzio alla mia radio. Stanno tentando di ridurci al silenzio, ma non ci riusciranno. Non può essere credibile che noi non inquineremo le onde di frequenza con il nostro idealismo e la nostra forza. W New York Radio ha dimostrato di essere come minimo insensibile al nuovo rock and roll che gli è nato sotto le orecchie. Una musica delle cause e dagli effetti mondiali, che aggiunge un nuovo significato di urgenza e di perentorietà. La radio ha coerentemente ritardato i bisogni della comunità per rimanere fedele ai limiti della morale. Noi non consideriamo sia paternalistico l'aver preso le frequenze e le aree di ricezione passive. Le radio FM sono nate agli inizi degli anni 60 come un'alternativa a trasmissioni povere di contenuti e alla ristretta visione monopolistica della radio di Stato, ma la promessa è stata tradita. Noi vogliamo la radio e la vogliamo subito. 1977, la celebrazione del bicentenario termina stanotte. Noi lo terminiamo con lo stesso desiderio di libertà, di idee individuali ed etniche, libertà dell'arte, libertà di lavoro. La libertà, una corrente di energia che si rigenera dal nutrimento di ogni generazione. La coscienza politica degli anni 60 era il risultato della repressione politica degli anni 50. Gli anni 70 hanno rappresentato il riemergere di entrambi. L'espressione di un attivismo politico-artistico. L'era coloniale è morta. Il rock and roll non è un'arte coloniale. Noi colonizziamo per favorire la libertà dello spazio. Dobbiamo dedicarci al futuro. Negli anni 60 era Dog God. I cani sotterranei si sollevarono ed emersero e lottarono per la libertà politica. Noi, nel 77, siamo Rat Art. Sospesa tra i rettili, i guardiani del rituale salutano tutti quei precursori e ridefinizioni della civiltà in un fluttuante sistema di lingue. Salutano e poi sputano su quelli che ci hanno abbandonati in mezzo alle rovine di tutto quello che era stato distrutto e che poi sono andati per la loro strada. Dedicato al futuro a cui noi siamo legati, noi ci disfiamo del passato perfetto come della carne cruda. Non accettiamo il passato come la punta massima della creazione. Noi ci ribelliamo e penetriamo la membrana del fango e di rovine, il deserto, il ristagno di ruggine. 1977. Noi, il popolo del nuovo esercito, stiamo abbassando la mira proprio per la sensualità, il gesto futuro in assoluto, per combattere la giusta lotta, la lotta per la libertà d'espressione, la lotta contro la grassa, grossa soddisfazione romana. Noi non vogliamo nessuna soddisfazione. Sorga la Art Rat, il seme del risveglio. Sorgete, prendete posizione. Duo Sonic, il sistema divino, armi adatte in miniatura come martelli, come i giradischi stereo che infilzano la palpebra dell'occhio. Un granello di sabbia nel nervo ottico di colui che prende tutto. A, B. Ed è fatto. Ed è irritato da uno sguardo così provocatorio che egli alla fine mostra la sua fase. Alla fine si sveglia scaltro e violento e delicatamente taglia il granello che lo ha svegliato. Fa il suo lavoro. Art Rat per l'intero spazio. Girini all'assalto, una linea nera che attraversa il bianco hotel, il vetro che separa lui dalla società e la vera prigione di luce, Art Rat, sotto forma di un ragazzo con un abito di latte, un'azione del pittore, capelli rosso tiziano di colui che si solleva in volo e colpisce la schiena del pilota, che perde il controllo senza scoprire il significato del rito della pura lingua, Art Rat, che possiede il nobile concetto del futuro, che attende gli altri ordini per partorire la lingua dell'amore, che pronunzia gli ordini più preziosi, le parole che si eccitano, i geroglifici fisici, le 14 posizioni. Fotti la parola è morta, in un'onda di rumore, per essere slegata e agitata e insozzata come una bandierina al di fuori della società sul fiume nero. Cittadini, sorgete! Sputate palline di carta contro il cielo, il seme del risveglio, risveglio, svegliatevi. The power. Questa era Patti Smith con People Have the Power, uno dei manifesti rock. Dopo diversi anni torna la musica con un inno davvero importante. La gente ha il potere, la gente può cambiare le cose. È stata una bella puntata questa La Tela Sonora qui a Radio Alma, Cuore di Poesia. Spero che lo sia stata anche per voi. Per me è stato molto bello parlarvi della parola. Ci soffermiamo poco su quello che è il nostro primo e più importante approccio sonoro con gli altri. E invece è importante, le parole sono importanti. Abbiamo cominciato questa puntata con Saramago, dal libro Di questo mondo e degli altri, con la sua cronaca dedicata alle parole. Alle parole ha dedicato anche delle poesie. Se volete seguire Saramago, anche la sua parte dedicata alle poesie, sempre in Audi, ha fatto uscire un bellissimo libro che si chiama Le poesie, bellissime anche perché hanno il testo originario a fronte e quindi si può confrontare anche il ritmo poetico che lo stesso Saramago voleva dare ai suoi versi. Bene, in questo libro, posso anche dirvi la pagina se volete, pagina 51, ci sono due poesie dedicate proprio alle parole. Ve le leggo molto volentieri, poi ci sarà ancora la musica, ancora una bella canzone di Patti Smith, una canzone scritta insieme con Bruce Springsteen, Because Night, un'altra delle sue canzoni più importanti, e io vi do appuntamento alla prossima puntata della Tela Sonora Cuore di Poesia, qui su Radio Alma, ancora per parlare, per comunicare e per incentrare il tutto sulla poesia, appunto. Nelle prossime puntate torneremo a intervistare poeti emergenti e non. Abbiamo già tutti i nostri contatti, abbiamo già tutti i nostri libri sulla scrivania da leggere o già letti e li proporremo a voi. Chiudiamo questa puntata con queste due poesie di Saramago. Da parte di Massimo De Martino è tutto. Buona poesia, buona tela sonora e buon cuore di poesia. La prima poesia che vi leggo si chiama Le parole sono nuove. Le parole sono nuove, nascono quando in aria le lanciamo in cristalli di delicate o dure risonanze. Siamo simili agli dèi quando inventiamo nel deserto del mondo questi segni, come ponti che abbracciano distanze. Questione di parole. Metto parole morte sulla carta, francobolli leccati da altre lingue o insetti trafitti di sorpresa dal rigore imparziale degli spilli. Di parole così ben appuntate riempio palche di dubbio e di sbadiglio. Tra le porte mi mostro gallonato, spacciando fiori secchi per biglietti. Se almeno si sapesse in che maniera son rose le parole nel roseto. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.